Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus, il commissario Arcuri implora gli italiani a rispettare le misure e annuncia in arrivo mascherine dalla Cina e dall'Italia grazie agli incentivi. Positivo al coronavirus anche Guido Bertolaso. Il governo intanto valuta un ulteriore inasprimento delle misure e dei controlli. Si pensa ad app e droni. Domani Conte sarà in aula, ma i parlamentari saranno contingentati. E dopo il leggero rallentamento dei casi al nord, l'attenzione si sposta al sud. A Palermo allarme case di riposo, 63 contagiati in una residenza a Villa Frati. In Spagna oltre 35.000 casi, la corsa per realizzare un ospedale da campo da 5.000 posti a Madrid. E buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Ampia pagina dedicata al coronavirus, quasi tutte le notizie dedicate alla cronaca sul coronavirus. Poco fa la Protezione Civile, come sentito anche dai titoli, con il commissario Arcuri ha fatto il punto anche sulla questione dei materiali necessari, respiratori e mascherine che scarseggiano in arrivo dalla Cina ma anche dall'Italia, ha detto Arcuri, grazie agli incentivi posti con il decreto Cura Italia. Mentre i dati ieri per il secondo giorno consecutivo indicano un leggero rallentamento dei casi, l'attenzione però si concentra al sud. Nel palermitano, come avete sentito, ci sono 63 casi positivi all'interno di una sola residenza per anziani. Oggi pomeriggio, nuovo Consiglio dei Ministri, nuovo possibile inasprimento delle misure e allora cominciamo da qui. Rispettare le disposizioni per il contenimento del coronavirus è indispensabile, a ripeterlo è anche il commissario straordinario Arcuri, che oggi ha fatto il punto sulle misure messe in campo dal suo insediamento. I posti letto in terapia intensiva sono passati da 5.300 a oltre 8.000, il 64% in più. Quelli nei reparti di pneumologia e infettivologia sono stati invece quadruplicati, 300 medici e 550 infermieri a breve verranno trasferiti nelle zone con più alto numero di malati, ha aggiunto Arcuri, che ha fatto poi il punto sulla distribuzione delle mascherine che fra tre giorni verranno prodotte anche da un consorzio italiano. Ieri abbiamo distribuito 4 milioni e 900 mila mascherine, è il numero più alto da quando è iniziata l'emergenza. Siamo passati da una media di 307 mila e 68 mascherine al giorno ad una media di 1.837.333 mascherine distribuite al giorno. Nel primo pomeriggio, intanto, il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera al decreto che inasprisce le sanzioni previste dalle norme sugli spostamenti. Oltre alla multa, che dovrebbe salire a 2.000 euro, ci sarà anche la confisca dell'auto per chi continua ad aggirare i divieti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma quali sono e come funzionano le tecnologie che il governo vuole coinvolgere per mettere a punto queste app, ma anche la possibilità di utilizzare i droni per effettuare i controlli sul funzionamento delle misure di contenimento? Sentiamo. L'approccio asiatico per controllare e tracciare gli spostamenti delle persone, verificare il rispetto delle quarantene da passare in casa e individuare gli incontri fra cittadini sani e persone positive al coronavirus per spezzare la catena del contagio si basa su un reticolo di sensori e tecnologie che da anni vengono utilizzate in Asia. A parte il caso cinese, dove il regime di Pechino è in grado di controllare ogni momento della vita dei cittadini, a Taiwan, Singapore e in Corea del Sud vengono incrociati gli spostamenti dei cittadini con varie fonti: smartphone, videocamere con riconoscimento facciale o delle targhe delle automobili, pagamenti elettronici e anche in questi paesi, per la verità, con una invasione della privacy sconosciuta in Europa. L'idea che sta maturando in Italia è usare un'app che i cittadini dovrebbero scaricare sullo smartphone che, senza condividere dati personali, avvisi nel caso di contatti con una persona positiva. Ma i positivi vanno individuati. Al lavoro, dal punto di vista tecnico, c'è una task force fra Ministeri dell'Innovazione e della Salute e Istituto Superiore di Sanità. L'altro grande fattore che ha contribuito al successo di questi sistemi per contenere la diffusione dell'epidemia in alcune nazioni asiatiche è la disciplina delle persone, perché senza collaborazione non c'è tecnologia che tenga. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la notizia che avete sentito dai titoli: anche Guido Bertolaso è positivo al coronavirus. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ha detto, ma non potevo non rispondere alla chiamata. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento, ha detto ancora Bertolaso. Sia io che i miei collaboratori siamo in isolamento, seguirò i lavori per la realizzazione dell'ospedale alla Fiera di Milano dalla mia quarantena. E a proposito della situazione in Lombardia, in attesa che oggi possa arrivare, speriamo, un terzo giorno con per la terza volta un numero che indica un leggero rallentamento dei nuovi casi di Covid-19, sentiamo come sta andando la situazione. A Milano in particolare è iniziato anche un monitoraggio sui come seguire i casi dei pazienti ammalati a casa prima che arrivino in ospedale. Il coronavirus è l'ebola dei ricchi. Più la società è medicalizzata, più si diffonde il virus. Lo scrivono in una lettera i medici di Bergamo dell'ospedale Giovanni XXIII, ormai al collasso. A Bergamo dicono l'epidemia è fuori controllo. I medici chiedono che vengano potenziate le cure a domicilio e nelle case di cura per limitare l'ospedalizzazione ai soli pazienti gravi, diminuendo il contagio in ospedale per gli altri pazienti e per il personale sanitario. In provincia di Bergamo, dove anche oggi sono 12 le pagine di necrologi sul quotidiano locale, anche le pompe funebri sono in difficoltà. Raccontano di un ordine per 60 feretri, di cui solo 30 sono stati consegnati. Da Lodi, dove la situazione è ora stabile, parla la dottoressa Claudia Lodesani di Medici Senza Frontiere, che nel 2015 lavorò in Africa con Ebola. Aumentare la protezione dello staff, che in questo momento è prioritaria, e poi di rafforzare l'intervento sul territorio con medici di base e dentro le strutture per anziani, perché questa è veramente la chiave di svolta. Il lieve calo nel numero dei contagiati in Lombardia oggi fa però ben sperare, lo ha detto stamattina il governatore della regione Attilio Fontana. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altro fronte è quello economico. Oggi c'è un nuovo incontro tra il governo e i sindacati per la messa a punto di tutti i dettagli che riguardano la sicurezza dei lavoratori su quei luoghi di lavoro nei quali si è deciso di andare avanti, perché si tratta di servizi essenziali in base a quanto decretato dall'ultimo DPCM del Presidente del Consiglio Conte. Sono due gli obiettivi dei tre segretari confederali Landini, Furlane e Barbagallo, collegati in videoconferenza dalle 11:30 di questa mattina con i ministri Patuanelli e Gualtieri. Il primo obiettivo è restringere il più possibile l'elenco delle attività essenziali che possono restare attive anche dopo il decreto Conte del 22 marzo. Secondo i sindacati ci sono categorie troppo generali, ad esempio tutta la produzione di plastica e carta e non solo quella funzionale a sanità, alimenti e servizi essenziali, o buona parte della produzione di macchine e utensili e non solo quelle legate alle filiere essenziali. Secondo obiettivo, far rispettare l'accordo sulla sicurezza del 14 marzo e dunque imporre la chiusura delle imprese che non possono o non vogliono rispettarlo. Su questo è d'accordo anche Confindustria, giusto vigilare, ha detto il direttore generale Marcella Panucci, e denunciare chi non rispetta il protocollo, ma Confindustria fa notare che il 70% circa delle attività devono chiudere entro domani in base al decreto, e che anzi alcune imprese delle filiere essenziali non sono comprese nell'elenco ed è giusto che possano autocertificarsi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la situazione politica. Ieri sera vertice tra la maggioranza e l'opposizione dopo le polemiche per le comunicazioni avvenute via Facebook da parte di Conte e anche per il mancato coinvolgimento del Parlamento si cerca di aprire un dialogo. A questa è dedicata l'analisi di Daniele Biacchessi. Tutto avviene dopo oltre un mese dall'inizio del contagio del coronavirus. In queste ultime ore sembra avviarsi un timido dialogo tra governo e opposizione. È presto per parlare di un accordo sul prossimo decreto legge di aprile che calibra comportamenti e soluzioni economiche per contrastare l'emergenza sanitaria. Meglio definirla una tregua, che potrebbe determinare un clima nuovo nel paese. Il segnale importante sta nella scelta della maggioranza che sostiene l'esecutivo a guida Conte di mettere in piedi due tavoli tecnici con l'opposizione, parlamentare e politico, per valutare la realizzazione di una vera e propria cabina di regia. Fino a ieri sera, prima della riunione tra Conte e i leader delle opposizioni, le esortazioni del capo dello Stato erano rimaste praticamente inascoltate. Solo una unità di intenti sulle cose da fare per il paese può indicare ai cittadini una strada certa da seguire. Del resto, una mera collaborazione non significa un governo di unità nazionale. Alla fine ognuno resterà fermo su posizioni contrapposte. L'importante è non invadere il reciproco campo di azione delineato dalla nostra Costituzione. Al governo in carica spetta la decisione finale. L'ascolto dell'opposizione è buon senso politico. La situazione adesso nel mondo: sono quasi 400.000 i casi di coronavirus registrati. In Cina quasi nessun nuovo caso, si cerca di tornare alla normalità, un percorso lungo. A Wuhan ci si potrà iniziare a muovere dalle proprie case dopo un blocco durato quasi 2 mesi. I primi a potersi muovere saranno le persone considerate sane, così hanno detto le autorità di Wuhan. Restano però chiuse le scuole in tutto il paese. In Gran Bretagna invece il governo invia messaggi a tappeto sui cellulari dei cittadini inglesi, invitandoli a rimanere a casa, visto che fino ad ora le misure di contenimento non hanno ottenuto gli effetti sperati. E poi c'è la Spagna, secondo paese dopo l'Italia con il maggior numero di contagi, oltre 35.000. A Madrid si sta allestendo anche l'ospedale da campo più grande d'Europa. L'emergenza coronavirus fa sempre più paura in Spagna, dove si registrano 35.000 casi di contagio secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Sanità. 2.300 sono invece i decessi ufficialmente riportati, 462 nelle ultime 24 ore. La Comunità di Madrid si conferma la zona più colpita a livello nazionale con oltre 10.000 contagi, numeri che hanno indotto il governo regionale a predisporre la costruzione di un ospedale da campo nella zona fieristica della capitale spagnola. La struttura può ospitare fino ad un massimo di 5.500 pazienti, cercando così di alleggerire l'enorme pressione a cui è sottoposto il sistema sanitario nazionale. Sempre a Madrid le autorità locali hanno inoltre annunciato il temporaneo trasferimento delle salme dei deceduti a causa del coronavirus all'interno del Palazzo del Ghiaccio, la cui temperatura garantisce la conservazione dei cadaveri. Anche a Barcellona il comune ha predisposto l'apertura di un apposito padiglione, in aggiunta al fitto di 200 appartamenti turistici attualmente vuoti da destinare all'assistenza dei malati. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona. E ora, come ogni giorno, cerchiamo di fare il punto anche sulle buone notizie che possono arrivare dalla ricerca di farmaci e vaccini. L'AIFA ha deciso di avviare la sperimentazione dell'antivirale Avigan, usato in Giappone, ma le risposte non arriveranno prima di 3 o 4 settimane. Lo ha detto il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini, che ha annunciato l'inizio di studi clinici anche su un altro medicinale antiartrite, il tocilizumab. Intanto il presidente del Veneto, Luca Zaia, in attesa dell'autorizzazione dell'AIFA, si dice pronto alla sperimentazione dell'Avigan, mentre la farmacia dell'ospedale San Martino di Genova ha già fatto partire l'ordine per l'antivirale usato in Giappone. Nel frattempo, all'ospedale universitario di Marsiglia, specializzato in malattie infettive, il professor Didier Raoul insiste sull'efficacia del cocktail da lui concepito, un mix tra l'antimalarico idroclorochina e un antibiotico, l'azitromicina, un rimedio che da ieri ha deciso di somministrare ai pazienti affetti da coronavirus ricoverati nel suo ospedale, anche se può avere pesanti effetti collaterali. Infine, l'OMS ha lanciato Solidarity, una sperimentazione tra 4 farmaci che verrà fatta a livello globale in più paesi su migliaia di malati di coronavirus. Si tratta di 2 medicinali anti-HIV, uno antimalaria e uno anti-Ebola. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora torniamo a parlare anche di come cambia la televisione in tempi di quarantena. Si cerca di proporre contenuti in diretta, ma è complicato. Aumenta invece l'offerta delle piattaforme streaming con l'arrivo oggi di un nuovo protagonista che era già molto atteso. È uno dei più grandi cataloghi del mondo ed è quello che aspettavano le famiglie. Da oggi in Italia il servizio Disney Plus o Disney Più. 25 titoli originali esclusivi, produzioni italiane, oltre 500 film, più di 350 serie per un totale di oltre 7.000 episodi. Costa 6,99 € al mese oppure 69,99 € per un anno. Si aggiunge dunque alle altre piattaforme che abbiamo a disposizione. Ovviamente Netflix con abbonamenti da 7,99 € a 15,99 € al mese, Amazon Prime Video inclusa nell'abbonamento per le consegne Amazon Prime. Ci sono poi le italiane Now TV, di Sky, Infinity, di Mediaset, Team Vision, di Team. E poco a poco amplia la sua offerta anche Apple TV+. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:15, effetto giorno, fa un break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Vi ricordo 349-238-6666 per scriverci, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, il commissario Arcuri implora gli italiani a rispettare le misure, annuncia in arrivo mascherine dalla Cina e dall'Italia. Positivo anche Guido Bertolaso, da oggi in quarantena, ho qualche linea di febbre ma sto bene, dice. Il governo intanto valuta un ulteriore inasprimento delle misure e dei controlli, si pensa ad app e droni. Domani Conte sarà in aula ma i parlamentari saranno contingentati. Allarme case di riposo a Palermo, 63 positivi in una residenza a Villa Frati a Palazzolo, 18 operatori contagiati, denunciano la Fondazione Dognocchi, tenuti all'oscuro dei casi positivi e senza protezioni. In Spagna sono ormai stati superati 35.000 casi di coronavirus, la corsa verso la realizzazione di un ospedale da campo per 5.000 posti a Madrid. Minuti di nuovo, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, avete appena sentito i titoli principali delle notizie di oggi, tra questi anche un allarme che arriva da una casa di riposo a Palermo dove sono stati registrati 63 positivi. E a dire la verità è l'ultima notizia di tante che in questi giorni si sono affastellate proprio a proposito della questione delle case di riposo in Italia. Pensate che sono 300.000 le persone, gli anziani ospiti in circa 7.000 strutture. Ci sono stati già casi come per esempio nelle Marche, due persone sono morte, 37 contagiate, la casa di riposo di Cingoli è accaduto a Mombretto di Mediglia in provincia di Milano dove ci sono stati 50 decessi, pari a un terzo degli ospiti, e così via altri casi. L'ultimo, l'abbiamo detto, riguarda la provincia di Palermo, ma c'è un caso che riguarda anche Palazzolo, dove arriva la denuncia di alcuni operatori. È con noi Romolo Reboa, avvocato dei lavoratori della cooperativa Ampast. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, so che sono 18 i dipendenti della cooperativa Ampast che lavorano alla casa di cura della Fondazione Dognocchi a Palazzolo. 15 di questi 18 dipendenti sono in isolamento perché sono già risultati positivi al coronavirus. Hanno fatto una denuncia, adesso ci spiegherà perché. Intanto le chiedo come stanno queste persone. Allora, una persona sta ricoverata a Sacchi, le altre stanno in isolamento a casa, quindi vi è una situazione insomma non piacevole, piacevole, ma soprattutto non piacevole per come si è svolto, per quello che è avvenuto. E tenga presente che ve ne sono stati anche altri tre che all'ultimo minuto si sono ritirati da questa azione per paura di ritorsioni da parte datoriale, e poi mi dicono che ve ne sono, e questo è semplicemente un reparto, ma sembra che ve ne siano anche in altri reparti, quindi sembra che la situazione sia più grave. Mi dicono, io ovviamente sono notizie che apprendo dai lavoratori, che in quella casa di cura vi sarebbero stati nei primi giorni di marzo un numero di decessi di pazienti superiore alla media, diciamo, e questo però poi sono queste informazioni che stanno girando ovviamente. Sì, assolutamente. Allora, una precisazione doverosa: noi abbiamo cercato la Fondazione Dognocchi, non siamo riusciti a entrare in contatto con nessuno ha voluto rilasciare un'intervista al momento. Perché parliamo delle case di riposo? Perché ci siamo concentrati tanto giustamente sulla situazione negli ospedali in prima linea, Bergamo, Brescia, Cremona, anche altrove, in Emilia-Romagna per esempio, dove ci sono tante persone ricoverate in terapia intensiva e dove i medici stanno facendo i salti mortali. Però dalla questione degli ospedali alla medicina sul territorio, a tutta una serie di altri servizi sociosanitari, come per esempio le residenze per gli anziani, dove è complice la carenza di dispositivi di protezione, abbiamo detto tantissime volte in questi giorni, mancano le mascherine che sono fondamentali per agire. Io ricordo quello che ha detto il presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, tanto per ricordarne una: siamo stati mandati a far la guerra con i fucili di carta pesta non era colpa di nessuno probabilmente, ma questa è stata la realtà delle case di cura. Piano piano sta emergendo una realtà, la realtà dove appunto il contagio si è diffuso facilmente in alcune di queste case di cure. Non facciamo allarmismo su tutte, ma in alcune sì. E sapendo che siete persone anche particolarmente a rischio, ciò è molto grave. Però i suoi assistiti, avvocato, dicono, se ho capito bene, intanto che non sono stati avvertiti nel momento in cui all'interno della casa di cura c'erano dei casi positivi. E che... il primo caso positivo non sono stati avvertiti, ma soprattutto mi hanno fatto una rappresentazione di una realtà. Sì. E essendo stata svolta da una pluralità di persone, è diventato, diciamo, sicuramente per me come avvocato la credibilità nasce anche dal numero delle persone che lo dicono, diciamo dal numero dei testimoni. Cioè, se lo dice una persona, può darsi che quella persona abbia dei motivi particolari anche per non dire la verità. Se lo dicono in 3, se lo dicono in 5, se lo dicono in 18, lei dice a questo punto la questione comincia a diventare, dal suo punto di vista, insomma, non più trascurabile. Diciamo che dal mio punto di vista parto dal concetto che vi è una pluralità di testimoni, anche perché quando da 18 sono le persone che appongono una firma e mettono il loro nome rispettando il loro posto di lavoro, e altre 3 persone abbiamo confermato la stessa identica versione e poi dicendo scusate, non ce la faccio, ho paura, tengo famiglia, diciamo così, quindi io mi ritrovo 21 testimoni, 21 testimoni sono tanti. Sono tanti, non per prendere le difese della casa di cura ad ogni occhio assolutamente, perché poi ci sarà credo un processo da questo punto di vista se partirà. Hanno fatto un comunicato. Quello che è accaduto un po' ovunque inizialmente, c'è stata una fase di negazione, cercava di minimizzare, di forse addirittura di negare l'evidenza, però questo è un atteggiamento che non può esserci all'interno di strutture sanitarie, può esserci a livello di opinione pubblica ma non in strutture come questa. Senta, altre cose che i suoi assistiti denunciano, per esempio la mancanza di dispositivi di mascherine, questo probabilmente non è direttamente colpa di nessuno, però, però è un problema. Loro denunciano una situazione ben più grave. Sì. Loro hanno denunciato e esposto nell'atto che non solo le mascherine mancavano, ma che le mascherine gli era stato vietato di indossarlo per non impressionare l'utenza, che è una circostanza ben più grave, in presenza tra l'altro di un PCM che imponeva le mascherine in questo tipo di strutture sanitarie, e stavamo parlando di Milano, zona a rischio. La situazione sotto questo profilo che loro rappresentano sarebbe una situazione di completo spregio degli interessi degli operatori sanitari e dei malati, per un volgare problema di cassetta, perché poi ogni persona che sta lì o a carico della regione, se è un solvent a carico proprio o a carico misto, è un portatore di soldi. E quindi questo tipo di paura che le persone che potessero essere prese e portate, comunque insomma il panico, il terrore, questo è evidente quello che hanno detto. Assolutamente. Mi hanno anche rappresentato, sì, e abbiamo esposto al procuratore della Repubblica di Milano una situazione che io ritengo veramente grave e discriminatoria, perché all'interno di quella struttura vi sono 2 tipi di operatori: gli operatori dipendenti della fondazione e gli operatori dipendenti della cooperativa esterna. Velocemente alla conclusione, perché le voglio chiedere ancora una cosa, prego. Che ha sede in quella che tra l'altro è una cooperativa esterna che ha centinaia di lavoratori e che ha sede all'interno della struttura. Allora, i lavoratori, tra l'altro tutti contagiati, hanno dovuto prendersi i loro abiti di lavoro, uscire con i loro abiti di lavoro e andarsene a lavare a casa, mentre gli altri, e quindi portando in giro per il contagio. Altri lavoratori, viceversa, quelli ufficiali, hanno avuto il lavaggio sterilizzato all'interno della struttura, e questo lei capisce che ci sono state anche delle differenze a questo punto di vista. L'ultima cosa che le voglio chiedere, avvocato, è una cosa che riguarda la struttura. Che lei sappia, visto che ci sono tanti dipendenti che sono in quarantena e che sono stati contagiati, chi garantisce adesso i servizi all'interno di queste strutture? Chi è stato chiamato? Questo, diciamo, è una domanda che dovrebbe porre certo. alla struttura, io mi sono posto dei problemi diversi. Di accertamento della veridicità della tutela degli interessi. È comprensibile che risponda così. Naturalmente era solo per così anche tranquillizzare, insomma, diciamo, chi ha magari dei familiari all'interno, ma sicuramente avranno continuare a tranquillizzare. No, guardi, avvocato. No, è tranquillizzare. Se volevo tranquillizzare non la chiamavamo in onda a fare questa denuncia, quindi non voglio tranquillizzare nessuno, volevo semplicemente sapere se all'interno della casa di cura Dognocchi di Palazzolo c'è qualcuno che si occupa degli anziani, tutto lì. Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro. Grazie avvocato, grazie per essere stato con noi. No, tranquillizzare assolutamente. Non avremmo cercato questo avvocato e non avremmo fatto questa intervista se non avessimo voluto invece dare spazio a questa denuncia. È una denuncia, quindi avrà un suo corso, eventualmente anche penale, ma solleva anche una situazione che è quella, lo ripeto, delle case di cura. Una cosa di cui si è parlato poco, ma bisogna invece parlarne perché si stanno rivelando dei veri e propri centri del contagio, così come anche è accaduto, forse per volontà di nessuno, forse per errore di qualcuno, anche all'interno degli ospedali. E su questo, l'avete sentito anche nel corso della prima parte di Effetto Giorno, c'è stata una lettera dei medici all'interno dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo che hanno chiaramente detto che bisogna potenziare la medicina sul territorio per evitare che l'ospedale diventi un luogo di contagio. Adesso invece una bella storia, è quella che riguarda le maschere da sub della Decathlon che si trasformano in ausili per la respirazione assistita dopo che sono state stampate con la stampa in 3D delle valvole apposite. È una storia di ingegno, di fantasia, una storia italiana. Cristian Fracassi, intervistato da Anna Marino, ce la racconta. Tutto è partito da una telefonata arrivata dalla direttrice del giornale di Brescia, Nunzia Vallini, che mi ha coinvolto e mi ha detto: l'ospedale di Chiari ha bisogno di una mano, sta finendo delle valvole, non riesce più a trovarle sul mercato, riesce ad aiutarci a stampare dei pezzi con la stampante 3D? E ovviamente abbiamo detto sì, e da lì è nato un po' il tutto. Da lì, dalla telefonata, che cosa è successo? Siamo stati coinvolti prima in un progetto che è quello di realizzare valvole Venturi attraverso la stampante tridimensionale. Ne abbiamo realizzate 100, le abbiamo consegnate all'ospedale e le sta usando sui pazienti Covid. Come l'avete progettato? Abbiamo recuperato il primo pezzo in ospedale, un pezzo già utilizzato quindi non più riutilizzabile. L'abbiamo ridisegnato da zero, l'abbiamo ingegnerizzato in 3D. Abbiamo realizzato i primi 4 pezzi. Un medico li ha testati prima su un paziente sano, un infermiere e uno su di noi. Una volta che ha avuto l'ok e ha visto che funzionava, ci ha quindi chiesto il giorno dopo: portatemi 100 pezzi perché io ne ho bisogno in maniera estrema. Siamo quindi attivati attraverso il gruppo Lonati, che è una stampante, abbiamo attivate tutte per essere il più veloci possibile, e noi il giorno dopo eravamo in ospedale a fare la consegna di 100 pezzi complessivi. Come avete contattato Decathlon? Un ex primario in pensione ha avuto l'idea di utilizzare una maschera da snorkeling, è venuto in Isinnova e ci ha fatto una lezione di anatomia su come funzionano i polmoni, e noi abbiamo progettato la valvola chiamata valvola Charlotte, che sostituita al boccaglio di una classica maschera Total Face permette di agganciare all'interno l'ossigeno e le valvole necessarie per la respirazione ventilata dei pazienti. Bene, una bella storia italiana. Adesso lo saluto, lo ringrazio, è con noi Gianni Bessi, responsabile gestione operativa degli uffici postali di Poste Italiane, buongiorno. Buongiorno. Per dare una informazione di servizio, una notizia ai nostri amici, parenti, nonni, zii, pensionati che vanno a prendere la pensione allo sportello. Credo che la novità riguardi loro, no? Quanti sono quelli che vanno ancora allo sportello? Sono tanti? Le persone che vanno ancora allo sportello sono tante, sì. Sono tante. Sono oltre 2 milioni i nostri pensionati che, pur avendo la pensione accreditata, vengono continuamente allo sportello ogni primo giorno del mese. Sì, ecco, sono ancora ecco. Parecchi. Un'abitudine che molti ci tengono e vogliono mantenerla. Adesso però che succede? Che per evitare, se abbiamo capito bene, code e fuori e dentro alle poste, avete pensato di fare uno scaglionamento ragionato delle persone, giusto? Esattamente, abbiamo predisposto un piano straordinario. La straordinarietà sta nel fatto che questo mese le pensioni verranno accreditate il 26 marzo e che tutti i pensionati che hanno un accredito su un libretto postale, su un conto corrente postale, ovviamente possono prelevare dal 27 in uno dei tutti oltre 7.000 ATM che abbiamo a livello nazionale. E questa è la possibilità che definirei numero uno per non andare in ufficio postale e per fare in modo che tutti i nostri clienti / cittadini possano prelevare la loro pensione nel modo, come dire, più indolore possibile per tutti quanti. E poi invece c'è ancora un'altra possibilità. Esattamente. Qualora per ragioni oggettive queste persone ritenessero comunque di recarsi in ufficio postale, è stata stabilita un'articolazione che va su 6 giorni con uno scaglionamento per lettera, che ricordo velocemente, quindi il giorno 26 la lettera A e la B, il giorno 27 C e D, il giorno 28 E, K e di nuovo da lunedì 30 L, O, il 31 P, R e il giorno 1 SZ. Quindi qualora non volessero prelevare da ATM ma volessero recarsi in ufficio postale, ci si va in questo modo tutti, con questo ordine. Dove si trova questo ordine se uno vuole essere sicuro? Sul sito delle poste? Assolutamente, sul sito ci saranno cartelle all'esterno degli uffici postali, il nostro sito che è quindi poste.it. E abbiamo attivato un numero verde, vi ricordo il numero, che è 800-003322. Perfetto. E lo posso ripetere così per chiarezza, 800-003322, per sapere esattamente l'ufficio postale vicino alla propria residenza che orari fa e che tipo di scaglionamento prevede. È il giorno in cui si può andare in base al cognome. Gianni Bessi di Poste Italiane, grazie per essere stato con noi, per averci dato questa informazione che speriamo aiuterà i pensionati. Grazie. 13:33 minuti, facciamo un altro piccolo break, torniamo tra poco, faremo il punto anche sulla produzione in Italia di mascherine, perché alcune aziende si stanno muovendo grazie agli incentivi previsti dal decreto Cura Italia, ma c'è qualcuno che è partito anche prima con produzioni che speriamo siano importanti, soprattutto che poi resistano anche dopo l'emergenza, che il sistema sanitario nazionale italiano riprenda ad approvvigionarsi dalle aziende italiane. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus. Il governo valuta un ulteriore inasprimento delle misure dei controlli. Si pensa ad app e droni. Domani Conte sarà in aula, ma i parlamentari contingentati. Positivo anche Guido Bertolaso. E dopo il leggero rallentamento dei casi al nord, l'attenzione si sposta al mezzogiorno. A Palermo allarme in una casa di riposo, 63 contagiati nella residenza di Villa Frati. In Spagna oltre 35.000 casi, la corsa per realizzare un ospedale da campo da 5.000 posti a Madrid, il più grande d'Europa. Aziende italiane in trincea, la GVS di Zola Predosa assume 120 persone, torna a produrre mascherine, 600.000 in consegna dalla Protezione Civile. Le Olimpiadi di Tokyo, il premier giapponese Shinzo Abe propone di farle slittare al 2021. Il CIO è d'accordo, mancherebbe a questo punto solo l'ufficialità. E 38 minuti, di nuovo buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, in diretta con Effetto Giorno. I vostri messaggi al 349-238-6666 o anche sulla pagina Facebook del programma. Sto dando un'occhiata, ma devo dire non c'è nessun messaggio particolarmente significativo. Dice che stiamo difendendo il governo, ci trascinerà anche a noi nelle catombe. Non capisco a cosa si riferisce questo ascoltatore. C'è stato un specie di verbio con l'ospite che abbiamo avuto nella seconda parte, l'avvocato dei dipendenti della cooperativa che lavorano all'interno della casa di cura Dognocchi a Palazzolo. Io ho detto, volendo rassicurare le persone che ci ascoltano, se qualcuno ha un familiare all'interno, non era certamente e non poteva essere, visto che abbiamo ospitato proprio l'avvocato per sollevare questo grave caso, se è vero, all'interno della Fondazione Dognocchi, cioè casi coronavirus tenuti nascosti, non detti ai dipendenti, che poi sono stati mandati a lavorare senza protezione e ci sono 18 contagi. Non è quindi in alcun modo intenzione di rassicurare niente e nessuno. Bisogna naturalmente denunciare quello che c'è da denunciare, dire per esempio, e lo faremo, abbiamo cercato oggi alcuni dei medici che hanno firmato questa lettera molto pesante, dei medici all'interno dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, che dicono che l'ospedale si sta trasformando in un covo da contagio, quindi da risposta al problema a fonte quasi del problema. Però bisogna anche poi stare attenti a quello che si dice, a chi lo dice, e a non creare dell'allarmismo inutile. Su questo, comunque, su questa lettera, su quello che è accaduto il Giovanni XXIII, magari torneremo più avanti anche nel corso della giornata e della programmazione. Adesso è il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Non si può lavorare e rischiare di infettarsi e magari morire di coronavirus. Non si può spegnere il motore dell'economia del paese già fermo al 70%, perché altrimenti non si riparte più e la bomba sanitaria diventa bomba sociale. È tra questi due estremi che si muovono oggi i protagonisti dell'incontro a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali per mettere a punto nel dettaglio la strategia per affrontare i rischi sanitari sui luoghi di lavoro e per definire meglio i settori cruciali e indispensabili. L'idea dello sciopero è sul tavolo, ma ha il sapore di un'ulteriore mazzata sull'economia in un momento in cui tutto serve tranne che scelte da KO. Naturalmente la sicurezza è prioritaria e quando la contingenza ci confina nell'imbuto di una scelta ultimativa tra lavoro e salute, è sempre la salute a prevalere. Ma è proprio questo il punto. In quell'imbuto non bisogna infilarsi, serve buon senso e anche aiuto pubblico nella fornitura delle dotazioni di protezione laddove siano necessarie. Così come serve buon senso nel definire i settori strategici, perché oggi le filiere produttive, con l'apporto della manutenzione e del contenuto di servizi alla nuova manifattura, sono molto più complesse di quanto possa spiegare un burocratico codice merceologico. E va bene, 13:41 minuti. È con noi Massimo Scagliarini, che è amministratore delegato della GVS Group. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. GVS Group, che produce dispositivi sanitari, tra cui anche mascherine, le producevate anche all'estero. Avete una sede in Italia che adesso avete deciso di rafforzare. Dove venivano poi vendute queste mascherine che producete voi? In tutto il mondo? Allora, sì, le nostre mascherine sono sempre state vendute in tutto il mondo. I siti sì. principali erano Brasile, UK e Romania. E recentemente abbiamo visto la situazione, sì. diciamo il 20 di febbraio abbiamo deciso di portare le produzioni in Italia. Anche in Italia. Non solo allo stabilimento principale, che è quello in provincia di Bologna, zona Predosa, ma se ho capito bene anche in altri stabilimenti, giusto? Ad Avellino. Noi abbiamo Avellino. Due stabilimenti in Italia, uno a Bologna e uno ad Avellino. Perfetto. E, quindi intanto così, tanto abbiamo imparato ad avere dimestichezza anche coi numeri. Quante mascherine riuscirete quando sarete a regime a produrre? Allora, le dico, abbiamo lanciato la scorsa settimana la prima linea e la seconda è in partenza domani. Questo ci dovrebbe portare a 300.000 mascherine al mese. Mm-hmm. Successivamente, la prossima parte, dovrebbero partire le altre due per arrivare a un totale di 650.000 mascherine al mese sul totale delle quattro linee. Ecco, il fabbisogno italiano naturalmente è molto molto alto, se non ho capito male si parla di oltre 40 milioni al giorno, o ricordo male io, qualcosa del genere? Sì, sono cifre comunque assolutamente molto molto, molto più importanti. Certo. Senta, ma lei, Scagliarini, pensa, so che avete fatto anche delle assunzioni per far partire queste nuove linee in Italia. Sì, l'obiettivo è arrivare a 120 assunzioni in totale. Di cui 40 persone le abbiamo già assunte e stiamo continuando. Il problema è che per essere veloci, sì. noi normalmente abbiamo tutte produzioni automatiche, ma per essere veloci siamo dovuti tornare indietro nel tempo e quindi abbiamo fatto linee manuali. Questo ci permette di approntare con molta velocità le linee, mm-hmm. però chiaramente richiedono un impegno dal punto di vista lavorativo importante, quindi ogni linea richiederà circa 30 persone sui tre turni, considerato che lavoriamo tre turni H24, insomma 7 su 7. Mascherine di che tipo, chiedono gli ascoltatori? Di quelle tecnologicamente più importanti. FFP3, noi avremo tre linee FFP3 e una linea FFP3 Biohazard, che è una linea dedicata ad ambienti altamente contaminati, perché viene testata con virus vivi innocui per l'essere umano, ma con virus vivi e per dimostrare la ritenzione dei virus ogni lotto di produzione. Senta, le faccio due domande collegate e quindi una domanda sola e le chiedo di rispondere, sì, in non tanto tempo perché purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, ma cosa farete dopo passata l'emergenza? Pensate di continuare a produrre in Italia, perché fino ad oggi c'è stata una mancanza di approvvigionamento a parte del Sistema Sanitario Nazionale e delle aziende italiane che hanno abbandonato questo settore ritenuto evidentemente poco anche lucroso perché non è tecnologicamente molto avanzato. So che voi però state pensando anche a introdurre delle novità in queste mascherine, novità tecnologiche per renderle, come dire, più appetibili forse anche a chi dovesse acquistarle, comprese l'Italia? Guardi, allora, assolutamente, nel medio termine chiaramente l'obiettivo è di automatizzare queste produzioni per poter produrre in Italia in modo competitivo, e questo è fondamentale. Poi noi sicuramente convertiremo tutte le linee a livello biohazard e quindi per un utilizzo in situazioni estreme o per reparti molto particolari, diciamo. Quindi non vorremmo rimanere nel mercato delle mascherine di basso livello, ma usa e getta. Ma in qualche cosa, per esempio, sì, quelle allora, riutilizzabili. Esatto, la cosa più importante è speriamo in questa settimana, sì, di poter pubblicare un protocollo, mm-hmm, per riutilizzare le nostre maschere FFP3. Ecco, questo sarebbe una svolta importante, sì, perché, sì, giustificherebbe, sì, anche un, come dire, un costo diverso di rispetto a quello che può essere la maschera usa e getta importata da paesi dove si basso costo di produzione, quindi riattivare anche magari una filiera italiana con questo quid in più di tecnologia. Scagliarini, le prometto che torneremo a sentirci per valutare anche questo aspetto, magari tra qualche giorno l'emergenza coronavirus non passa. Grazie per ora. Andiamo un po' veloci perché abbiamo tante notizie, tra cui Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao Alessio, ciao a tutti. Allora, oggi forse una notizia è arrivata. Sì, che si va verso un rinvio delle Olimpiadi, come ampiamente previsto, perché il primo ministro giapponese Abe ha detto che ha comunicato al CONI la necessità e l'opportunità di un rinvio al 2021 dell'Olimpiade. Ha detto che CONI, ovviamente. Il CIO sembra favorevole, Comitato Internazionale Olimpico, dunque parola a Bacca che dovrebbe entro chiuderla, breve ratificare questa decisione. Poi ci sono anche dei balletti intorno alle date del rinvio, perché in un primo tempo aveva detto rinviamo ma sempre all'interno del 2020, forse ad ottobre. Qui si va verso un rinvio di un anno secco di 12 mesi. Di 12, sì, mesi. Ne parleremo con Alex Zanardi, tra l'altro, se c'è, sì, un grande atleta che incarna esattamente lo spirito sportivo olimpico è proprio lui, lo sentiremo dopo. Grazie Carlo, appuntamento con voi tutti convocati dopo il giro delle 14. Piccolo break, torniamo subito con Giulia Crivelli.